41. Valen si osservò con sguardo spento la vecchia camera. Anch'essa era esattamente la stessa, tanto che le sembrò impossibile di essere così cambiata dall'ultima volta in cui vi aveva dormito. Le pareva comunque indecente che fosse perfettamente uguale. C'era la regina Louise che continuava a scendere la gradinata, inoltre nessuno aveva lasciato entrare in casa il derelitto cucciolo che si trovava sotto la pioggia. Ecco la tendina di carta color porpora e lo specchio verdognolo, fuori il vecchio negozio di carrozze con le vistose pubblicità. Più avanti la stazione con i soliti derelitti e con le ragazzine che flirtavano. Qui la vecchia vita l'attendeva, come un truce mostro in attesa, intento a leccarsi le membra. Valen si avvertì d'un tratto un terribile sgomento quando calò la notte e si fu spogliata e distesa. Il provvidenziale torpore la abbandonò e giacque in preda al tormento, con il pensiero rivolto alla sua isola sotto le stelle, i fuochi del bivacco, tutti i piccoli scherzi casalinghi condivisi con Barney, le frasi e i tormentoni, i loro bellissimi gatti pelosi, le brillanti luci sulle isole delle fate, le canoe che scivolavano sul Mista Whis nella magia del mattino. Le bianche betulle che rilucevano tra gli scuri abeti come i corpi di bellissime donne, le nevicate invernali e le lingue di fuoco rosso-rosate del tramonto, i laghi ebbri del bagliore lunare, tutte le delizie del suo paradiso perduto. Non avrebbe pensato a Barney, soltanto a quelle cose marginali, non poteva sopportare il pensiero di Barney. Poi la sua mente andò inesplicabilmente a lui, lo bramava. Voleva le sue braccia attorno a sé, il suo volto contro il suo, voleva udire i suoi sussurri nelle orecchie. Rammentò tutti gli sguardi amichevoli, le battute, gli scherzi, i suoi delicati complimenti, le sue carezze. Li contò uno a uno, come una donna avrebbe potuto contare i gioielli. Neppure uno ne dimenticò, a partire dal giorno in cui si erano incontrati. Questi ricordi erano tutto ciò che le potesse appartenere adesso. Chiuse gli occhi e pregò. Lascia che li ricordi tutti, Dio. Non permettere che dimentichi un solo, in singolo istante. Eppure sarebbe stato meglio dimenticare. Questa agonia del desiderio e della solitudine non sarebbe stata così terribile se avesse scordato. E Ethel Travers, quella splendente incantatrice di donna con quella pelle bianca, gli occhi neri e i capelli lucenti, la donna che Barney aveva amato, la donna che continuava ad amare. Non le aveva forse detto che non cambiava mai idea? Colei che lo stava aspettando a Montreal, che era la moglie giusta per un uomo ricco e famoso. Barney l'avrebbe sposata, naturalmente, una volta ottenuto il divorzio. Quanto la odiava e la invidiava! Barney le aveva detto ti amo. Valency si era chiesta con quale intonazione Barney avrebbe detto ti amo, come sarebbero apparsi i suoi occhi blu scuro mentre pronunciava quelle parole. Ethel Travers lo sapeva. Valency la odiava per questo, la odiava e la invidiava. Non potrà mai avere quelle ore nel castello blu. Esse mi appartengono, pensò Valency con veemenza. Ethel non avrebbe mai fatto la marmellata di fragole, non avrebbe mai danzato al suono del violino di Abel e non avrebbe mai fritto il bacon per Barney su un fornellino da campeggio. Non sarebbe mai venuta alla casupola vicino al Mista Whis. Che cosa stava facendo, pensando, provando Barney in quel momento? Era tornato a casa e aveva trovato la sua lettera? Era ancora arrabbiato con lei o provava un po' di pietà? Giaceva sul letto con lo sguardo rivolto al burrascoso Mista Whis e ascoltava la pioggia che si riversava sul tetto? Oppure stava ancora vagando nella foresta, consumandosi di rabbia per la difficile situazione in cui si trovava? La odiava? Il dolore la lambì e la strinse con la forza di un enorme e spietato gigante. Si alzò e iniziò a passeggiare. Non sarebbe mai giunto il mattino, dunque, per porre fine a quella terribile notte. E comunque, che cosa poteva portarle il nuovo giorno? La vecchia vita, priva della solita inattività che la rendeva almeno sopportabile. La vecchia vita colma dei nuovi ricordi, delle nuove bramosie, della nuova angoscia. Oh, perché non posso morire? Gemette Valency. 42. Non fu che nel primo pomeriggio del giorno seguente che una spaventosa vecchia auto sferragliò su per Elm Street e si fermò dinanzi alla casa di mattoni. Un uomo senza cappello saltò fuori dall'abitacolo e salì i gradini in tutta fretta. Il campanello fu suonato come mai prima di allora. con veemenza e intensità. L'ospite domandava di poter entrare, pur non avendolo espressamente chiesto. Lo zio Benjamin ridacchiò mentre si affrettava verso la porta. Lo zio Benjamin aveva fatto un salto in Elm Street per chiedere come stesse la piccola Doss, ossia Valency, la cara Doss Valency, stava allo stesso modo, gli avevano riferito. Era scesa a colazione, ma non aveva mangiato ed era tornata nella sua stanza. Poi era scesa a cena, ma non aveva mangiato ed era rientrata in camera. Tutto qua. Non aveva parlato ed era stata gentilmente e premurosamente lasciata da sola. Molto bene, Redfern verrà qui quest'oggi, disse lo zio Benjamin. E in quel momento la reputazione dello zio Benjamin come profeta si consolidò. Redfern era lì, non c'era alcun dubbio. Mia moglie è qui? Chiese allo zio Benjamin senza giri di parole. Lo zio Benjamin sorrise in modo inespressivo. Mister Redfern, vero? Molto lieto di conoscerla, signore. Sì, quella sua monella di una ragazzina è qui. Siamo stati. Devo vederla! Barney interruppe bruscamente lo zio Benjamin. Certamente, Mr. Redfern, la prego di entrare, Valency scenderà tra un minuto. Accompagnò Barney nel salotto e si recò in soggiorno da Mrs. Frederick. Sali al piano di sopra e dia a Valency di scendere, suo marito è qui. Ma lo zio Benjamin era talmente dubbioso che Valency scendesse veramente in un attimo o che scendesse affatto che seguì Mrs. Frederick in punta di piedi, salì le scale e rimase nell'ingresso ad ascoltare. Valency, cara, disse Mrs. Frederick teneramente, tuo marito è nella sala e chiede di te. Oh, mamma! Valency si alzò dalla finestra e prese a torcersi le mani. Non posso vederlo, non posso! Digli di andarsene, chiedigli di andarsene, non posso vederlo! Dille, sibilò lo zio Benjamin dal buco della serratura, che Redfern non se ne andrà prima di averla vista. Redfern non aveva detto niente del genere, ma lo zio Benjamin pensava lui fosse quel tipo di uomo. Valency sapeva che era così, comprese che sarebbe dovuta scendere prima o poi. Non rivolse neppure uno sguardo allo zio Benjamin quando lo superò sul pianerottolo. Allo zio Benjamin non importava. Sfregandosi le mani e ridacchiando, si ritirò in cucina, dove chiese cordialmente alla cugina Stickles: «Perché i bravi mariti sono come il pane?» La cugina Stickles chiese il perché. Perché le donne ne hanno bisogno, rispose lo zio Benjamin con un radioso sorriso. Valency appariva tutt'altro che bella quando entrò nella sala. La notte in bianco aveva giocato uno spaventoso scempio sul suo volto. Indossava un brutto e vecchio abito di percale marrone blu, poiché aveva lasciato tutti i suoi bei vestiti nel castello blu. Ma Barney percorse la stanza a grandi passi e la prese tra le braccia. Valency, tesoro, cara, piccola sciocca, che cosa ti hai mai preso per fuggire a quel modo? Quando sono tornato a casa la scorsa notte ho trovato la tua lettera, sono quasi impazzito. Era mezzanotte in punto, sapevo che era troppo tardi per venire qui. Ho trascorso l'intera notte a camminare avanti e indietro. Poi questa mattina è arrivato il papà. Non sono riuscito a liberarmi prima di adesso. Valency, che cosa ti è preso? Altro che divorzio, non sai? So che mi hai sposata soltanto per pietà, disse Valency allontanandolo debolmente da sé. So che non mi ami, so. Beh, ti ha fatto male stare troppo sveglia durante la notte, affermò Barney scuotendola. È solo questo il tuo problema? Se ti amo, piccola, quando ho visto il treno che stava per investirti, è come se ho capito se ti amassi oppure no. Temevo avresti tentato di convincermi che ci tieni a me, gridò Valency con passione. Non farlo, non farlo, so tutto di Ethel Travers. Tuo padre mi ha raccontato ogni cosa. Oh, Barney, non torturarmi, non potrei mai tornare con te. Barney la lasciò andare e la osservò per un istante. Qualcosa nel pallido e risoluto volto esprimeva la sua determinazione più di qualsiasi parola. Valency, disse pacatamente. Mio padre non potrebbe averti detto tutto perché non conosce la verità. Vuoi permettermi di raccontarti ogni cosa? Ah, sì, rispose Valency stancamente. Oh, com'era caro, come desiderava gettarsi tra le sue braccia. Quando la fece gentilmente accomodare su una sedia, avrebbe potuto baciare le dita affusolate e abbronzate che le avevano toccato le braccia. Non riuscì ad alzare lo sguardo mentre lui stava lì, eretto di fronte a lei. Non osava incontrare i suoi occhi. Per il suo bene doveva essere coraggiosa. Lo conosceva, gentile, altruista. Ovviamente avrebbe finto di non volere indietro la propria libertà. Avrebbe dovuto saperlo che avrebbe agito così una volta esauritosi lo shock iniziale. Era davvero dispiaciuto per lei, comprendeva in quale orribile posizione si trovasse, quando mai non aveva capito, ma non avrebbe mai accettato il suo sacrificio, mai. Hai visto mio padre e sai che sono Bernard Redfern. Inoltre suppongo tu abbia compreso che sono anche John Foster, dato che sei entrata nella stanza di Barba Blu. Sì, ma non ci sono entrata per curiosare. Ho dimenticato che mi avevi detto di non entrare. Ho dimenticato. Non importa. Non ho intenzione di ucciderti e appenderti al soffitto, così non c'è bisogno di chiedere aiuto alla sorella Anna. Ho semplicemente intenzione di raccontarti la mia storia fin dal principio. La scorsa notte sono rientrato con quella determinazione. Sì, sono il figlio del vecchio dottor Redfern, famoso per le pillole color porpora e per gli amari. Oh, vuoi che non lo sappia? Non sono forse stato massaggiato con quella roba per anni? Barney rise amaramente e passeggiò alcune volte avanti e indietro per la stanza. Lo zio Benjamin, attraversando l'ingresso in punta di piedi, udì quella risata e si accigliò. Di certo Doss non aveva intenzione di comportarsi come una cocciuta piccola sciocca. Barney si lasciò cadere su una sedia di fronte a Valency. Sì, per quanto io riesca a ricordare, sono sempre stato il figlio di un milionario, ma quando nacqui il papà non era così ricco. Non era neppure un medico, non lo è neanche adesso. Era un veterinario e un fallito. Lui e la mamma vivevano in un paesino su nel Quebec ed erano abominevolmente poveri. Non ricordo la mamma, non ho neppure una sua foto. Morì quando avevo 2 anni. Era 15 anni più giovane del papà, una giovane insegnante. Quando morì, il papà si trasferì a Montreal e fondò una società allo scopo di vendere il suo tonico per capelli. Una notte ne aveva sognato la composizione, a quanto pare. Beh, ebbe successo. Il denaro iniziò a fluire. Il papà inventò o sognò anche gli altri prodotti, le pillole, gli amari, gli unguenti e così via. Quando compì 10 anni era milionario e aveva una casa così grande che un ragazzino come me vi si sentiva sperduto. Avevo tutti i giochi che un ragazzo potesse desiderare ed ero il piccolo diavolo più solo al mondo. Ricordo soltanto un giorno felice della mia infanzia, Valency, soltanto uno. Persino a te è andata meglio. Il papà si mise in viaggio per far visita a un vecchio amico che abitava in campagna e mi portò con sé. Fui lasciato libero nell'aia e trascorsi l'intera giornata a martellare chiodi in un ceppo di legno. Fu meraviglioso. Quando dovetti tornare nella mia camera piena di giochi della grande casa di Montreal, piansi, ma non dissi il perché a papà, non gli dicevo mai niente. È sempre stato difficile per me esprimere i miei sentimenti, Valency, ciò che provavo nell'intimo. E quasi tutto mi coinvolgeva tremendamente. Ero un bambino sensibile, divenni un ragazzo ancor più sensibile. Nessuno ha mai saputo che cosa avessi sofferto. Papà non lo ha mai immaginato. Quando mi mandò a una scuola privata, avevo soltanto 11 anni, i ragazzi mi immersero nella vasca della piscina finché non acconsentii a stare in piedi su un tavolo per leggere ad alta voce le pubblicità degli abominevoli brevetti di mio padre. A quel tempo lo feci. Barney serrò i pugni. Ero spaventato, ero quasi annegato, il mio mondo era contro di me. Ma quando andai al college e gli studenti del secondo anno tentarono la stessa bravata, non cedetti. Barney sorrise cupamente. Non riuscirono a piegarmi. Ma riuscirono, si ingegnarono a rendere la mia vita miserabile. Non parlavano che di pillole, amari e tonici per i capelli. Dopo l'uso era il mio soprannome. Beh, ho sempre avuto una folta capigliatura. I 4 anni di college furono un incubo. Sai, forse no, quali bestie spietate possano essere i ragazzi quando trovano una vittima come me. Avevo pochi amici, c'era sempre una sorta di ostacolo tra me e le persone cui tenevo. E gli altri, quelli che avrebbero avuto un immenso piacere nel diventare intimi con il figlio del vecchio dottor Redfern, non mi interessavano. Ma avevo un amico, o così pensavo, un tizio sveglio e amante dei libri, una specie di scrittore. Eravamo legati da quella comune passione, avevo delle segrete aspirazioni in quel campo. Era più grande di me, lo guardavo con ammirazione, lo veneravo. Per un anno fui felice più di quanto non lo fossi mai stato. Poi uno sketch comico fu pubblicato sulla rivista del college, una cosa pungente che metteva in ridicolo i rimedi di papà. I nomi riportati erano altri, naturalmente, ma tutti sapevano a chi e a che cosa alludesse. Oh, era geniale, dannatamente geniale e spiritoso. McGill si piegò in due dalle risate e scoprì che era stato lui a scriverlo. Oh, Ne eri sicuro? Gli occhi vacui di Velen si fiammeggiarono per l'indignazione. Sì, quando glielo chiesi lo ammise, disse che una buona idea valeva sempre molto più di un amico e aggiunse un altro gratuito colpo basso. Sai, Redfern, ci sono alcune cose che il denaro non può acquistare. Nel caso specifico non può comprarti un nonno. Beh, fu un brutto tiro. Ero abbastanza giovane da sentirmi a pezzi, inoltre molti dei miei ideali e delle mie illusioni se ne andarono distrutti, il che fu la cosa peggiore. Da allora divenni un giovane misantropo. Non volevo fare amicizia con nessuno. E poi, un anno dopo aver lasciato il college, incontrai Ethel Travers. Valen si rabbrividì. Barney, le mani infilate nelle tasche, stava guardando il pavimento con aria imbronciata e non se ne avvide. Il papà ti ha raccontato di lei, suppongo. Era molto bella, io l'amavo. Oh, sì, l'amavo. Non intendo negarlo né sminuirlo adesso. Fu il primo amore appassionato di un ragazzo solitario e romantico e fu assai reale. Inoltre pensavo che anche lei mi amasse. Ero abbastanza pazzo da crederlo. Fui follemente felice quando promise di sposarmi. Durò alcuni mesi, poi scoprì che non mi amava. In una certa occasione ascoltai involontariamente una conversazione e fu soltanto per un istante, ma quell'istante fu sufficiente. Il destino proverbiale dell'ascoltatore indiscreto mi venne incontro. Una ragazza, sua amica, le stava chiedendo come potesse tollerare il figlio del dottor Redfern e tutto ciò che riguardava il brevetto dei medicinali. Oh, il denaro indorerà le pillole e addolcirà l'amaro, le rispose Ethel con una risata. La mamma mi aveva detto di accalappiarlo se ci riuscivo. Siamo al verde, ma poh, sento odore di trementina tutte le volte che mi si avvicina. Oh, Barney! Gridò Valen, si stretta dalla pietà per lui. Aveva dimenticato tutto ciò che la riguardava ed era piena di compassione per Barney e di rabbia contro Ethel Travers. Come aveva osato! Beh, Barney si alzò e iniziò a passeggiare attorno alla stanza. Quello fu il colpo di grazia. Completamente. Abbandonai la civiltà e quei maledetti idioti per andare nello Yukon. Per 5 anni girovagai per il mondo in ogni sorta di paese straniero. Guadagnai abbastanza per poter vivere, non avevo intenzione di toccare il denaro di papà. Poi, un giorno mi svegliai con la consapevolezza di non provare più niente per Ethel. In un modo o nell'altro, era qualcuno che avevo conosciuto in un altro mondo, niente di più, ma non avevo alcun desiderio di tornare alla vecchia vita. Non faceva per me, ero libero e intendevo restarlo. E arrivai qui, sul Mista Wiss. Vidi l'isola di Tom McMurray. Il mio primo libro era stato pubblicato l'anno precedente, avevo ottenuto un grande successo, avevo guadagnato del denaro con i diritti d'autore e acquistai la mia isola. Mi tenni però lontano dalla gente, non avevo fiducia in nessuno, non credevo esistesse la vera amicizia o il vero amore, comunque non per me, il figlio delle pillole color porpora. Trovavo divertenti tutte le truci storielle che raccontavano su di me, infatti temo di averne personalmente suggerite alcune, facendo misteriosi commenti che le persone interpretavano alla luce dei loro pregiudizi. E poi sei arrivata tu. Ho dovuto credere che tu mi amassi, che amassi veramente me, non i milioni di mio padre. Non c'era altro motivo per cui avresti voluto sposare un diavolo senza un penny e con i miei ipotetici precedenti, e io provavo pena per te. Oh sì, non nego di averti sposata perché provavo pena per te. E poi ho scoperto che eri la migliore, la più allegra e la più cara compagna che avessi mai avuto, spiritosa, leale, dolce. Mi hai costretto a credere nuovamente nella vera amicizia, nel vero amore. Il mondo sembrava di nuovo bello perché c'eri tu, tesoro mio. Desideravo che continuasse così per sempre tra di noi. L'ho capito la notte in cui sono tornato a casa e ho visto per la prima volta la luce della mia casa che risplendeva sull'isola e sapevo che tu eri lì ad aspettarmi. Dopo essere stato senza una casa per tutta la vita, era bello averne una. Tornare affamato a notte inoltrate, sapere che c'era un buon pasto e un fuoco accogliente e che c'eri tu. Ma non avevo compreso che cosa tu significassi realmente per me fino a quel momento sui binari. Poi è stato come un fulmine a ciel sereno. Ho capito di non poter vivere senza di te, che se non fossi riuscito a liberarti in tempo sarei dovuto morire assieme a te. Ammetto che ciò mi ha atterrito, mi ha mandato fuori di testa. Mi ci è voluto del tempo per abituarmi a questa nuova situazione. Ecco perché mi sono comportato come un asino. Ma ciò che mi ha annientato era il terribile pensiero che tu stessi per morire. Ho sempre odiato quell'idea, ma supponevo non ci fossero delle possibilità per te, così ho cercato di non pensarci. Ora invece dovevo affrontarla. Saresti morta, io non potevo vivere senza di te. Quando sono rientrato a casa la scorsa notte, avevo deciso che ti avrei portata da tutti gli specialisti del mondo, che sicuramente c'era una qualche soluzione. Ero certo che non potessi essere così grave come il dottor Trent aveva pensato, dato che durante quei momenti sui binari non eri stata minimamente male. Poi ho trovato il tuo biglietto e sono impazzito per la felicità. E poi sono stato colto dal terrore che non tenessi molto a me dopo tutto e che te ne fossi andata per sbarazzarti di me, ma adesso è tutto a posto, non è vero, tesoro? Era lei, Valency, che lui chiamava tesoro? Non posso credere che tu ci tenga a me, disse impotente. So che non è possibile. A cosa serve, Barney? È ovvio che ti dispiace per me. È naturale che tu desideri fare quanto possibile per aggiustare questo pasticcio, ma non è così che si può sistemare. Tu non puoi amare me. Si alzò e indicò tragicamente lo specchio sopra la mensola del caminetto. Certamente neppure Alan Tierney avrebbe potuto scorgere della bellezza nel piccolo volto afflitto e smarrito che vi si rifletteva. Barney non guardò allo specchio, guardò Valency come se avesse desiderato ghermirla e picchiarla. Se ti amo, ragazza, tu sei nell'intimo del mio cuore, ti tengo là come un gioiello. Non ti ho forse promesso che non ti avrei mai mentito? Se ti amo. Ti amo con tutto ciò di cui dispongo per amarti, con il cuore, con l'anima, con la mente, ogni fibra del mio corpo e del mio spirito si emozionano di fronte alla tua dolcezza. Al mondo non esiste per me nessun altro che te, Valency. Sei un bravo attore, Barney, disse Valency con un triste e lieve sorriso. Barney la guardò. Così non mi credi ancora? Io non posso. Oh, dannazione, disse Barney con veemenza. Valency alzò lo sguardo atterrita, non aveva mai visto questo Barney minaccioso, gli occhi neri per l'ira, le labbra beffarde, il volto bianco come un morto. Tu non vuoi crederlo, disse Barney con quella voce liscia come seta che segnalava l'ultimo stadio della rabbia. Sei stanca di me, vuoi uscirne, vuoi liberarti di me, ti vergogni delle pillole e degli unguenti, proprio come lei, il tuo orgoglio degli Sterling non riesci a tollerarli. Andava bene fin tanto che credevi che non avresti vissuto a lungo. Bello scherzo, potevi tollerare me, ma una vita intera con il figlio del dottor Redfern è tutt'altra cosa. Oh, capisco perfettamente, sono stato davvero ottuso, ma alla fine ho capito. Valency si alzò in piedi. Fissò lo sguardo nel suo volto infuriato, poi si mise improvvisamente a ridere. Oh, tesoro, disse, stai dicendo la verità. Tu mi ami davvero. Non saresti così furioso altrimenti. Barney la fissò per un istante, poi la prese tra le braccia con quella bassa risata dell'innamorato vittorioso. Lo zio Benjamin, che era rimasto raggelato per l'orrore al buco della serratura, d'un tratto si rilassò e si diresse in punta di piedi da Mrs. Frederick e dalla cugina Stickles. «È tutto a posto!» annunciò trionfante. «Cara, piccola Doss, avrebbe mandato subito a chiamare l'avvocato per modificare ancora una volta il testamento. Doss doveva essere la sua unica erede. A colei che ha, sarà certamente dato». Mrs. Frederick, tornando alla confortante convinzione che esistesse la divina provvidenza, tirò fuori la Bibbia di famiglia e cercò la voce «Matrimoni». 43. Ma Barney, protestò Valency dopo alcuni minuti, tuo padre in qualche modo mi ha fatto intendere che tu l'ami ancora. Ah, oh, non ne dubito, il papà detiene il primato nel prendere a bagli. Se c'è una cosa che è meglio non dire, puoi star certa che lui la dirà. Ma non è un cattivo vecchio, Valency, ti piacerà. Oh, mi piace già. E il suo non è denaro corrotto, sai, lo ha guadagnato onestamente, le sue medicine sono del tutto innocue, persino le sue pillole color porpora possono fare assai bene quando le persone ci credono. Ma io non sono adatta a te, sospirò Valency, non sono particolarmente intelligente, istruita o... Ah, la mia vita è sul Mista Wiss, e in tutti i luoghi incontaminati del mondo non ho intenzione di chiederti di vivere come una donna di società. Naturalmente dovremo trascorrere un po' di tempo con il papà, è solo e anziano. Oh, ma non in quella sua enorme dimora, lo supplicò Valency, non posso vivere in un palazzo. Beh, non puoi abbassarti a tanto dopo aver avuto il tuo castello blu, sogghignò Barney. Non preoccuparti, tesoro, neppure io potrei vivere in quella casa. Ha una bianca scalinata di marmo con delle balaustre dorate e ha l'aspetto di un negozio di arredamento cui siano state tolte le etichette. A dispetto di ciò è l'orgoglio di mio padre. Ci compreremo una casetta da qualche parte fuori da Montreal, nell'aperta campagna, abbastanza vicina per andare spesso a trovarlo. Penso che ne costruiremo una appositamente per noi. Una casa che costruisci per te stesso è molto più bella di una già pronta. Ma trascorreremo l'estate al Mista Wis e in autunno viaggeremo. Voglio che tu veda l'Alhambra a Granada. Credo sia quanto di più vicino al castello blu dei tuoi sogni. E c'è un giardino di altri tempi in Italia dal quale voglio mostrarti la luna che ascende su Roma attraverso gli scuri cipressi. Sarà più bella della luna che sorge sul Mista Wis? Non più bella, ma di una bellezza diversa. Ci sono così tanti tipi di bellezza. Valency, prima di questo anno hai trascorso la vita nello squallore. Non sai niente della bellezza del mondo. Scaleremo le montagne, andremo a caccia di tesori nei bazar di Samarcanda, cercheremo la magia dell'est e dell'ovest e correremo mano nella mano fino all'altro capo del mondo. Voglio mostrarti tutto, tutto, rivedere tutto attraverso i tuoi occhi. Ragazza, ci sono milioni di cose che voglio farti vedere, che voglio fare con te, che voglio dirti. Ci vorrà una vita intera e dobbiamo riconsiderare la questione del ritratto di Tierney, dopo tutto. Mi prometti una cosa? Chiese Valency con aria solenne. Qualunque cosa, disse incautamente Barney. Soltanto una. Non dovrai mai, in nessun caso, sotto nessuna provocazione, rinfacciarmi che sono stata io a chiederti di sposarmi. 44. Estratti dalla lettera scritta da Miss Olive a Mr. Cecil Bruce. È davvero disgustoso che la folle avventura di Doss abbia avuto questo esito. Ti fa credere che non sia di utilità alcuna comportarsi con decoro. Sono certa che la sua mente fosse squilibrata quando se ne andò di casa. Quello che disse riguardo a un monticello di polvere ne è la prova. Naturalmente non credo abbia mai avuto problemi di cuore, o forse Snaith o Redfern, o come diamine si chiami, le ha rifilato le pillole color porpora là in quella catapecchia del Mista Wis e l'ha curata. Beh, sarebbe un buon attestato per la pubblicità di famiglia, ti pare? È una creatura dall'aspetto talmente insignificante, l'ho detto a Doss, ma tutto quello che mi ha risposto è stato: non mi piacciono gli uomini inamidati. Beh, di sicuro lui non è un uomo inamidato, sebbene io debba riconoscere che ha una certa distinzione, ora che si è tagliato i capelli e che si veste in modo decoroso. Credo davvero, Cecil, che dovresti fare un po' più di esercizio, non va bene mettere su troppa carne. Sostiene anche di essere John Foster, credo. Possiamo scegliere di credergli oppure no, suppongo. Il vecchio dottor Redfern ha dato loro 2 milioni di dollari come regalo di nozze. Evidentemente le pillole color porpora gli garantiscono il pane. Trascorreranno l'autunno in Italia, l'inverno in Egitto, poi attraverseranno la Normandia durante il periodo di fioritura dei meli. Non con quella spaventosa Lizzie, però. Redfern si è comprato una splendida auto nuova. Beh, penso che anche io fuggirò di casa e cadrò in disgrazia. Sembra dare buoni risultati. Lo zio Ben è una comica, e così anche lo zio James. Il chiasso che stanno facendo riguardo a Doss è assolutamente disgustoso. E sentire la zia Amelia parlare del il mio genero Bernard Redfern e mia figlia Mrs. Bernard Redfern. Ah, la mamma e il papà sono sgradevoli come gli altri e non riescono ad accorgersi che Valency semplicemente li deride sotto i loro stessi occhi. 45. Nel freddo crepuscolo di una notte di settembre, Valency e Barney costeggiarono i pini della terraferma per uno sguardo di commiato al castello blu. Il Mista Wis era pervaso dal bagliore lilla del tramonto, incredibilmente delicato e inafferrabile. Nip e Tuck stavano gracchiando pigramente tra i vecchi pini. Goodluck e Benjo miagolavano rinchiusi in gabbie separate per essere trasportati dalla cugina Georgiana con la nuova auto verde scura di Barney. La cugina Georgiana si sarebbe presa cura di loro fino al ritorno di Barney e Valency. Anche la zia Wellington, la cugina Sara e la zia Alberta avevano chiesto il privilegio di accudirli, ma questo fu accordato alla cugina Georgiana. Valency era in lacrime. Non piangere, Moonlight. Saremo di ritorno l'estate prossima e adesso faremo una vera luna di miele. Valency sorrise attraverso le lacrime. Era così felice che quella felicità la terrorizzava. Ma nonostante le delizie che l'attendevano, la gloria della Grecia e la grandezza di Roma, Il richiamo dell'eterno Nilo, il fascino della riviera, le moschee, i palazzi e i minareti. Sapeva perfettamente bene che nessun posto, luogo o casa in tutto il mondo avrebbe mai posseduto la magia del suo castello blu. Fine.